Anthony, Popolino. CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ canale 10. Anthony! Chi è? Chi è? Attenzione Antonio, bombo, ciao Natalia. Paolo, non risponde. Sa cucada. Chiamiamo Antonio, rispondi qua, capo! Dormita, aspetta che tolgo. Sì, sicuramente. Volevo chiedergli dove l'aveva comprato quel ventilatore che sta dicendo lui. Ma non è entrata ancora. Ma chi, Antonio? Il K. Boh, non so neanche che modello ha. Dice che c'ha le palle in alluminio. Non lo so. Io stamattina ne ho riparato uno che era inchiodato con le palle in alluminio, ma di quelli grandi però, di quelli grandi, senza il piedistallo, ha la base, a lui lo può inclinare, però è grande, capito? C'ha le palle in alluminio. Io ho capito. Guarda, umano, però no. Non ne manda aria. Questo io ho aggiustato stamattina. Mi cappa. Aiutare bene. Senza BP. Ma chi c'ha una potenza a me? Chi c'ho detto? A uno detto buccia. Maria, è esagerato chi? E Antonio Puglia dice che ce n'è uno con le cose in alluminio, che ha una potenza. Hai visto quanto è grande questo? Via. Forse uno è più malnubi, però no, il motore non gira veloce. Questo ti sto dicendo a uno, ma guardati il video, a velocità 1, c'è una cosa allucinante. Ah, e poi io c'ho quello che ti ho mandato la foto ieri, e l'altro piccolino che ce l'ho sulla lavatrice in bagno. Io capisco. E poi da quando ho preso quello che gli metti l'acqua, l'altro, quello col piedistallo regolabile l'ho lasciato in soffitta. Cosa? Chi c'è il climatizzatore? Giù capito. E lì ci vuole. Mentre l'altro lo porto in giro per la casa quando c'è proprio caldo estremo. Ma mi pare che vada mi curico un po' perché non ne ho voglia, ragazzi, lo capisci, so. Ma poi un ciugaggio, voglia. Io lo so, vedi se figlio sonno un po'. C'è un po' di sonno arretrato, capito? E io me ne devo approfittare quando ti veni un giorno, non detto go. Appunto. E ma quando si addurori a poco di viniti lo sonno. Sì, super. Purtroppo. Vabbè, là, ci sentiamo, alle prossime. Via, qua già acceso. Via, sento Gianni l'assenteista. Gianni!